Bella mia, se ritornasse il sole, quello che ci riscaldava 30 o 40 anni fa. Bella mia, tra le canne e le viole si cantava a gola tesa, dimmi adesso come va. Bella mia, è tornata primavera, ma la grande, quella vera, quella non ritorna più. Bella mia, si tirava a far mattino con la musica ed il vino, con gli amici e con Gesù. Bella mia, non contavamo i rischi, ma contemplavamo i dischi come fosse verità. Bella mia, li cantavano i profeti senza ipocrisie o divieti, e adesso chi li canterà? Bella mia, cercavamo un po' noi stessi, troppo furbi o troppo fessi, ma non lo sapremo mai. Bella mia, e ci scrivo una canzone alla faccia del padrone che non ho coperto mai. Bella mia, t'ho promesso anche la luna, fu vigliaccheria o sfortuna, non ci sono riuscito mai. Bella mia, ci riproverò domani, ho un affare per le mani e tu dimmi come stai. Bella mia, s'avvicina già l'inverno, assomiglia un po' all'inferno, mi dispiace ma è così. Bella mia, ho ripreso anche a fumare, ma ci voglio riprovare, ricomincio lunedì. Bella mia, è passato anche domani, Biancaneve, i sette nani, obladì e anche obladà. Bella mia, è passata ormai la festa, ci prendiamo quel che resta dei castelli dell'età. Bella mia, sono molto riflessivo, ciò vuol dire che son vivo e qualcosa sa da fa. Bella mia, me l'ha detto anche Platone, di non fare più il coglione che non è finita qua. Bella mia, me l'ha detto anche Plotino, di non fare più il cretino che si ricomincerà. Yeah. And you must go round and round till you come back to me. Thank you, sir. Not at all.